You'll find out more about Penelope in a moment. But before we continue with the dialogue, do you remember the word for sons or children? Figli. This is the masculine plural form. There's no great difference between the word for son and that for daughter, apart from the final vowel. Listen. Figlio. Son. Figlia. Daughter. Due figli. Two sons. Tre figlie. Three daughters. There are just three more new words. Il gatto. The cat. Il gatto. La gatta. The cat feminine. La gatta. Moglie. Wife. Moglie. Evviva! Hurrah! Evviva! Ed ora ascolti il dialogo. Lorenzo, lei ha bambini? Io ho Penelope. Lei è bella e affettuosa. Penelope's your little girl. Little girl? No, Penelope è la gatta di Lorenzo. Oh, I see! Oh, that's wonderful! Meraviglioso! Meraviglioso, avere un gatto. Allora, io ho due gatti. Sì, e una moglie. Ecco le bistecche! Evviva! Evviva! Evviva!